Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Ogni domenica alle 12 su Controradio e nel quinto elemento su controradio.it. Contatti restiamoanimali@controradio.it. Restiamo animali! Aspetta, ridiciamolo. 1, 2, 3. Restiamo animali! Buongiorno, buongiorno, 70ª puntata di Restiamo Animali. È domenica 3 marzo 2013 e siamo in diretta. Vi salutano dallo studio 1 questa volta con voi Camilla Lattanzi, Massimo, Beatrice Montini, Elisa Moretti, Lorenzo Guadagnucci, Luigi Lombardi Vallauri con poca voce, Valentina Reggioli, Alessandra Giannini, Giuseppe Coco. Adesso continuiamo con un fantastico jingle che abbiamo creato per voi, una collezione di messaggi su Restiamo Animali ben auguranti, visto che è il nostro primo compleanno, un anno insieme a voi. Ricapitoliamo che cosa abbiamo combinato durante quest'anno con voi, quest'anno di Restiamo Animali. Siamo rimasti animali e soprattutto abbiamo conosciuto tantissimi fantastici individui animali che abbiamo intervistato. Ce ne ricordiamo qualcuno, forse i più simpatici sono stati sicuramente la capretta Giacomina, la signora Mirtilla e poi gli allevatori pentiti, Gorgo e la Peppa, i maiali dell'Ippoasi. Ve ne ricordate qualcuno anche voi? Sì, mi ricordo i pavoni degli Hare Krishna perché dopo ci vado a mangiare, quindi me lo ricordo di già. Bello, beato te. Poi il rifugio, rapaci di Vicchio, il centro faunistico Monte Adone. Beh, tutti i cani del canile che ci hanno salutato abbaiando festosamente. Infatti, il canile del termine. E poi ciliegia, il cane ucraino. Poi c'è il gatto Ricky recuperato dopo 3 mesi di assenza miracolosamente. E lì c'è un conflitto di interessi, visto che è il nostro gatto. E poi il gallo Angiolino, dei nostri amici Anna e Gianluca. E Nunzia e la Carlotta. Nunzia e la Carlotta, anche qui c'è un conflitto di interessi. Un altro conflitto di interessi, sono due meravigliosi maiali neri che vivono dove abitiamo anche noi, sono nostri compagni, nostri coinquilini. La vecchia fattoria sta. Esatto. E poi ricordiamo anche qualche evento che abbiamo organizzato, la cena Restiamo Animali organizzata il 16 di dicembre insieme al rifugio di Vicchio, insieme a Sea Shepherd, ai Cubs, quelli che fanno antibracconaggio, agli Orsi della Luna, il GATT e anche il canile del termine, naturalmente. E poi l'evento Liberi dalla Carne, il 26 gennaio, in occasione della Settimana Mondiale per l'abolizione di allevamenti e macelli. Ultimo, ma non ultimo, perché diciamo ha lanciato molto il nostro blog e ci ha messo in contatto con tutta Italia, il digiuno a staffetta che abbiamo organizzato in appoggio a quello di Davide Battistini, che ha digiunato dal 28 gennaio 2013 fino al 12 febbraio 2013 per ottenere una legge regionale che metta finalmente un divieto a tenere i cani a vivere e morire legati a una catena. Musica tutta vegana per festeggiare il nostro primo anno. Iniziamo con una parola di moda, Default, e dagli Asfittici, Atomi di Pace, il nuovo progetto di Tom York. Seguirà una piacevole aria di mare che ci chiede perché facciamo piangere e soffrire gli animali, brano i cui proventi di vendita vanno all'associazione PETA. Si parla ancora di lacrime, ma saranno dovute al battuto di cipolla che Ala e Camilla amorevolmente prepareranno accompagnate da una coppia gay friendly, di cui lei è vegana. Ci sarà anche modo di ascoltare due sorelle, non sorelle, due icone che hanno fatto dell'ambiguità sessuale il loro stile di vita. Anche in questo caso uno delle due sorelle è vegan e accompagneranno due fratelli di spirito che praticamente scoprirete dopo chi sono. Chiuderemo celebrando un grande artista e uno dei suoi capolavori che compie più di 20 anni. So, da cui preleviamo il martellone come di buon auspicio per il programma Restiamo Animali, sperando che anche questo diventerà un martellone per i prossimi 20 o 30 anni. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Alessandra, che cosa rispondiamo a chi ci accusa di mangiare come dei piccioni, cioè soltanto sementi? Rispondiamo che hanno perfettamente ragione, perché il menù che vi propongo quest'oggi per il pasto sgarbato è appunto il ragù di semi di girasole. Ingredienti per 2 kg di pasta, perché qui nella redazione di Restiamo Animali non scherziamo con le dosi, vegani sì, ma a dieta no. Ingredienti: 330 g di semi di girasole sbucciati, 3 cipolle medio piccole, 5 carote, 1 kg e 400 g di passata di pomodoro, mezzo litro d'acqua, sale, peperoncino e olio. Tritare i semi di girasole non troppo finemente, e tritare sempre non troppo finemente sia le carote che le cipolle. A questo punto, in una casseruola, preparare un soffritto con l'olio d'oliva e le verdure che abbiamo appena tritato, aggiungere i semi, aggiungere il pomodoro e l'acqua, salare e far cuocere il tutto per 2 ore, Camilla? Ma sì, facciamo anche 2 ore e mezzo. Crepi l'avarizia. 2 ore, fate molta attenzione a cuocerlo coperto e schizza terribilmente, quindi se non volete ustionarvi viso, mani e braccia, vi consiglio vivamente di girarlo con un mestolo e la vostra mano protetta da un guanto. Non vegani sì, bruciati no. Un s'attacca alla pentola? S'attacca alla pelle. Buon appetito, ovviamente vegan. Aspetta, ridiciamolo. 1, 2, 3, restiamo animali! Enzo Maiorca, restiamo animali? Decisamente sì, restiamo animali. Jill Robinson, restiamo animali? Restiamo animali, remain animals. Onorevole Andrea Zanoni, restiamo animali? Restiamo animali. Io mi chiamo Simone Salvini, restiamo animali. Sindaco Gonzales, restiamo animali? Certo, restiamo animali. Sonny Ricchichi, restiamo animali? Sì, restiamo animali. Davide Battistini, restiamo animali? Restiamo animali, restiamo animali. Professoressa Hack, restiamo animali? Certo, restiamo animali, siamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Animal House. Notizie, interviste, attualità. Con il professor Luigi Lombardi Vallauri, che abbiamo qui noi, con noi oggi, affrontiamo un argomento che è di grande attualità. In questi giorni sui media anche locali si parla molto di un manifesto che è stato affisso, nel nostro caso a Grosseto, ma ha fatto la sua comparsa anche in altre parti d'Italia, da una campagna di campagne per animali, per l'appunto. Il manifesto ha scioccato perché propone una sorta di contenitore tipo quelli del supermercato, dove si intravede un bambolotto spezzato, quindi la faccia di un bambino, come se fosse incellofanato per la vendita e per la consumazione, per essere mangiato. Il manifesto ha uno slogan: chi mangi oggi, gli animali non sono cose, quando li mangio li sfrutti, mangi qualcuno, non qualcosa, diventa vegan. Lo scandalo è stato creato per l'uso del bambino, diciamo il bambolotto, in questa immagine di antipubblicità, potremmo dire. Professor Vallauri, che ne pensa di questa proposta? Gesù, non ho voce, Gesù, uno degli uomini più scandalosi della storia, ha detto: "Porte tut scandala eveniant", bisogna che gli scandali avvengano, e lui ne ha creati moltissimi. Quel manifesto è chiaramente scandaloso, offende il sentimento che abbiamo tutti fortissimo, viscerale, per i bambini. D'altra parte, quando io vedo una porchetta al supermercato che viene tagliata andando lentamente verso la testa, o quando ho visitato il mercato di Catania dove ci sono degli animali divisi in due con la colonna vertebrale segata dalla testa alla coda e le enormi bocche spalancate dei pesci che hanno agonizzato, o il pesce spada che a poco diventa soltanto più una testa con due occhi e la spada, anche questo mi offende. E allora cosa si fa? Io credo il manifesto dice in modo scioccante una verità, ma dire la verità può essere controproducente. È il problema di come comunicare le verità scomode, e non lo risolviamo certo in questo momento. Semmai mi chiedo chi è che ha interesse a scandalizzarsi. Certamente i ben pensanti egemoni che vogliono rimanere tranquilli, ma poi mi chiedo, non c'è un forte interesse dei macellatori, dei pellicciai, eccetera, a creare un identikit dell'animalista come un marginale, uno psicologicamente minore, un pezzo al culo, un terrorista, un misantropo nemico degli uomini? Di chi sono gli interessi? Ci sono quelli del ben pensante individuale, ma ci sono quelli dei poteri economici forti, e di questi interessi dobbiamo accorgerci. Ecco. Poi io non lo so se sul piano giuridico ci sia l'offesa a qualche sentimento. Il problema dell'offesa ai sentimenti, per esempio religiosi, viene molto discusso in diritto penale, e la tendenza maggioritaria è di dire che non si offendono i sentimenti, non c'è penale per le offese ai sentimenti. È probabile che questa vicenda prosegua anche sul piano giudiziario, perché è di questi giorni la notizia di esposti alla magistratura per un uso strumentale, questa è l'accusa, dell'immagine del bambino da parte del garante dei diritti dei bambini e anche credo da parte dell'Istituto degli Innocenti. Quindi è una questione di cui sicuramente continueremo a parlare, i ben pensanti probabilmente, come accade da che mondo è mondo, saranno sempre a difesa dei poteri costituiti. Invitiamo ovviamente a telefonarci subito, visto che siamo in diretta, un'occasione unica, a questo numero 055 73 99933, ripeto 055 73 99933, per le vostre domande, interventi, curiosità su questo e anche su altri argomenti. E ora una buona notizia per tutti i nostri amici cani. L'Italia dal 14 febbraio è indenne dalla rabbia. Che cosa vuol dire? Che non dovete più fare il vaccino, e questo vale per tutta Italia. Rimane l'obbligo solamente per chi espatria, per avere in regola il passaporto dell'animale. Quindi vi risparmiate soldi e soprattutto evitate di riempire il vostro animale di veleno. I veterinari vi hanno messo al corrente di questo? Se non l'hanno fatto, diteglielo voi. C'è una telefonata in linea, ci dice Cesar, pronto? Buongiorno, e dunque io sono vegetariana da tantissimi anni, però quello che vorrei che fosse fatto dai supermercati e dai negozi, una linea di prodotti adatta a chi non mangia carne, né uova, né formaggi di animali. Ecco, si potrebbe convincere le industrie a guadagnare non sugli animali, ma su altre cose che sono adatte a vegetariani. È una bella domanda, insomma, un domandone. Sicuramente c'è lo spazio per certificare in maniera chiara affinché le persone possano scegliere, ma come stiamo vedendo per la carne di cavallo, l'etichetta trasparente non esiste, è un sogno, e il discorso del profitto rende praticamente tutto possibile, no? Anche che carne di cavallo, che costa meno perché in un determinato frangente c'è una macellazione record di cavalli, venga mescolata di nascosto alla carne di manzo. Valentina, volevi fare un commento tu? Secondo me quello che noi possiamo fare come consumatori è quello di cercare in tutte le maniere di far presente la nostra contrarietà a una certa politica, quindi non soltanto non scegliere alimenti quali la carne, le uova eccetera, ma continuare a chiedere alle direzioni del supermercato, del negozio, individualmente andando a rompere le scatole eccetera ai produttori, scrivendo, protestando, in modo da far capire bene, certo, quello che noi vogliamo come consumatori. Questa secondo me è l'unica nostra forza. Per il momento quindi invitiamo l'ascoltatrice a fare pressione presso i suoi negozi di fiducia e di riferimento. È possibile? Ma mi scusi, io vorrei che ci fosse una linea ai prodotti adatti a vegetariani. C'è solo la valsoia e qualcos'altro. Cioè, ci sono animali morti a sfare, ma per i vegetariani non esiste quasi niente. Ecco, bella domanda. Senti, su questa domanda, alla quale non abbiamo risposte se non quella di andare a cercare etichetta per etichetta quello che è adatto a te, purtroppo ancora non sfonda, diciamo, commercialmente questo mercato, però sta crescendo e quindi ci auguriamo che quanto prima, anche forse per un discorso di profitto, anche se noi saremmo più dalla parte di una scelta etica, quindi di un divieto totale della macellazione degli animali, però se qualche azienda, anche solo per una questione di un mercato che sta crescendo, deciderà di fare una linea, noi saremo ad appoggiarla. Grazie, a presto, ciao ciao, continua ad ascoltarci. Un'altra breve notizia. Giunta informazione che c'è uno scandalo in Germania per uno scioccante video della PETA, la People for Ethical Treatment of Animals, girato di nascosto in un allevamento di galline ovaiole biologiche. Le uova prodotte erano contrassegnate con il codice zero, che dovrebbe significare galline allevate a terra e con mangime biologico, e invece provenivano da galline allevate in gabbia. La redazione di Restiamo Animali approfondirà più avanti questo argomento, pubblicando anche il video girato di nascosto dagli attivisti tedeschi. Che è un video molto particolarmente scioccante, lo metteremo subito nel blog per chi avrà il fegato per guardarlo. Siccome a noi ci piacciono gli attivisti che si fanno vedere, che si fanno sentire, vogliamo ricordare un'operazione che è avvenuta giovedì 21 febbraio, quando un attivista di Nemesi Animale ha interrotto una delle sfilate più importanti della settimana della moda, quella di Just Cavalli, noto ai più per le sfarzose pellicce che utilizzano i suoi capi, all'Arco della Pace. La ragazza è riuscita a saltare sulla passerella mentre sfilava uno dei tanti capi con l'inserto di pelliccia sotto gli obiettivi di centinaia di fotografi, con un cartello con su scritto: la vostra moda, la loro morte. Poche ore dopo, una decina di attivisti e attiviste hanno messo in atto una protesta davanti all'ingresso della sfilata di Prada, sdraiandosi per terra in modo da bloccarne l'ingresso e mostrando cartelli contro l'utilizzo di pelle e pellicce. Queste proteste non vogliono puntare il dito contro un'azienda in particolare o un singolo stilista, ma far parlare della condizione di sofferenza a cui sono destinate decine di milioni di animali ogni anno per fare pellicce e pelle. Molto carino il video fatto dalla PETA, in cui si vedono questa volta animali che sfilano con parti di persone, orecchie, brandelli di pelle, braccia, eccetera. Chissà se anche questo farà inorridire i ben pensanti di cui si parlava prima. Do C'è un'altra telefonata, pronto? Ciao, sono la Grazia. Grazie, ciao. Mentre eravamo a Pomezia, abbiamo saputo che fermi a Manchester ci sono dei beagle pronti per mandare alla vivisezione. Noi abbiamo il numero telefonico e quelli che eravamo nel pullman abbiamo telefonato lì all'aeroporto dicendo di non toccare i beagle, che i beagle devono essere liberi. Se vuoi io te lo do in diretta e chi vuol telefonare non so cosa si potrà fare, però comunque è sempre una protesta. Prego, lo vuoi? Prego, prego, dacci il numero. Dammelo, Donella. 0044 20 76 04 8000. Ma quindi questo è un numero inglese, forse. Valentina ci può fare una premessa. Eravate a Pomezia, che cosa c'era ieri a Pomezia, Valentina? Ecco, fatto lì dalla Valentina che forse... Sì, ciao, grazie. Spiegalo te, vai, che c'eri, così ci racconti com'è andata. No, com'è andata. Poi siamo entrati, non ci volevano fare entrare assolutamente, c'era questi di Roma, sono abbastanza un po' più cazzuti, ecco, scusa se mi è venuta la parola anche così. Niente, poi dopo un lungo patteggiare siamo entrati in 10-11 come delegazione e ci hanno fatto andare di fronte alla Menarini proprio, dove abbiamo ricordiamo che era la manifestazione contro la Menarini, contro uno stabilimento della Menarini. Quindi contro la vivisezione che contro viene fatta dalla Menarini. Okay. Abbiamo messo un grande cartello giallo con su scritto, e l'abbiamo lasciato, no vivisezione, stop alla vivisezione, insomma come protesta, almeno loro sanno che siccome loro la Pomezia hanno detto che mai avevano permesso che qualcuno si avvicinasse così vicino ai cancelli della Menarini, così hanno visto che ci siamo andati e si è lasciato il cartello. Molto grande, molto visibile, giallo. Poi, tornando nel pullman, l'Antonella, che forse la conosce, quella dell'Umbria, ci ha detto che hanno prelevato ora da qualche parte dei beagle, gli attivisti si sono legati, non sono riusciti a fare niente, allora sono venuti i furgoni per prelevare i beagle e portarli sull'aereo, nessuna compagnia aerea li ha voluti. Li ha voluti soltanto una compagnia privata. Allora che cosa hanno fatto? E hanno chiesto, per quanto poco si possa fare, di telefonare e dire all'aeroporto di Manchester di non portare alla vivisezione, di fare qualcosa, no, di lasciarli liberi, di tutelarli. Valentina, il discorso è però... Comunque, se si telefona, il numero ve l'ho dato. Quindi, Grazia, tu stai invitando gli ascoltatori a telefonare all'aeroporto di Manchester, possibilmente parlando un minimo d'inglese. Il numero inglese, basta, sarebbe meglio. Sarebbe meglio, sì, perché in italiano ho cercato di parlare anch'io. Insomma, ho cercato di parlare, okay. Non abbiano capito. Daremo agli ascoltatori il numero e lo metteremo anche nel nostro blog. Ti ringraziamo per questa telefonata, grazie tante per questa segnalazione. Ricordiamo a tutti gli altri ascoltatori, se vogliono chiedere, commentare, ma anche qualche critica, non c'è problema, telefonino allo 055 73 999 33. Last night I heard a shaking melody from the top of a nearby willow tree. Aspetta, ridiciamolo. 1, 2, 3. Restiamo animali! You are my sister, we were born. So innocent, so full of need. Nella giornata di ieri si è svolta una festa organizzata dalla Fondazione Maier con l'utilizzo di vari animali. Noi come redazione Restiamo Animali avevamo mandato una mail di protesta ricordando... Allora, innanzitutto tra questi animali c'era l'utilizzo dei falchi, uno spettacolo di falconeria. Abbiamo chiesto cosa ci sia di tanto divertente nel vedere animali addestrati, tanto più che la falconeria altro non è che una pratica venatoria. Noi per esempio non faremo mai assistere dei bambini a una caccia al cinghiale, per dire. Come mai allora far vedere una pratica venatoria come quella dei falchi addestrati? Inoltre nella falconeria, come le altre pratiche venatorie, alla violenza sulle prede, quelle che vengono cacciate dai falchi, si somma anche quella verso i falchi stessi. Non tutti sanno forse che fuori dai momenti della caccia, delle fasi di volo, i falchi vengono mantenuti con uno stretto cappuccio sul capo che copre totalmente gli occhi. La notizia è che la Fondazione Maier ci ha risposto, ci hanno informato che non risulta una pratica non rispettosa verso gli animali, queste attività sono rispettose dei loro animali e tese a promuovere l'aspetto culturale, storico e ricreativo degli animali. La notizia positiva però è che nelle prossime occasioni pubbliche, ci scrivono, non mancheremo di avere ancora più attenzione alle tematiche da noi evidenziate, quindi speriamo che in un futuro non ci siano più pratiche di questo tipo. Ce lo auguriamo veramente. Abbiamo al telefono un ospite eccezionale, un grande personaggio che abbiamo intervistato ad aprile 2012, la cui intervista è stata cliccatissima nel nostro blog, era la 13ª puntata, eravamo ancora agli albori del nostro primo anno di trasmissione. E salutiamo quindi Enzo Maiorca. Pronto? Buongiorno Enzo Maiorca. Buongiorno. Allora, grazie per aver chiamato, grazie per essere qui. Grazie a voi per avermi pensato. È importante per noi avere personaggi come lei dalla nostra parte. La sua storia, la storia della sua, diciamo, presa di coscienza, della sua consapevolezza rispetto a uno sguardo sugli animali è preziosa, è di grande insegnamento, è molto importante. E che cosa sta facendo in questo periodo? So che è attivo, ci hanno parlato di lei, ragazzi di Sea Shepherd, quindi immagino che vi siate conosciuti. Allora c'è da battersi come passi a difesa delle balene, dei delfini, del mare in genere, di tutto. Certo. Come sempre in Italia è una lotta continua, perché nessuno ancora riesce a prendere coscienza che l'uomo in questo mondo è un ospite e come tale dovrebbe comportarsi. Pronto? Sì, sì, ci sono, la sto ascoltando, sono tutto orecchi. È vero, è assolutamente così, purtroppo il problema non è soltanto italiano, è mondiale, stiamo assistendo in questi giorni alle azioni eroiche e anche avventurose di Sea Shepherd che sta cercando di fermare la caccia alle balene in Antartica. Appunto, basti pensare a quello che fa Sea Shepherd per rendersi conto che è un problema ormai universale, direi, e quindi... Onore e merito a questa gente, veramente. Infatti, e speriamo... Se io fossi più giovane sarei senz'altro imbarcato con loro. Anch'io, se non soffrissi mal di mare. Ah, lei è limitata dal mal di mare. Io sì, sono un po', diciamo... Però se non ci fosse quello scoglio, secondo me quella sarebbe una battaglia da vivere. Certo, e soprattutto meritevole di essere vissuta. Assolutamente. Abbiamo visto l'altra sera un video e abbiamo ascoltato il canto delle balene, ci ha veramente commosso. È bellissimo. È una cosa che bisognerebbe davvero ascoltare per capire tante cose sull'ingiustizia che compiamo tutte le volte che pensiamo di avere il dominio e il diritto su altri viventi. No, anche perché poi siamo a parità di diritti. Siamo a parità di diritti e non di doveri, perché noi abbiamo più doveri degli animali, chiamiamoli così, che poi io mi sento più animale degli altri. Infatti il professor Vallauri dice sempre noblesse oblige, cioè se l'uomo è davvero superiore, si ritiene superiore, lo deve dimostrare con la nobiltà e quindi attraverso il rispetto. Bravissimo. Enzo Maiorca, abbiamo in linea Cristina Giusti, che è la portavoce italiana di Sea Shepherd, quindi siete tutti e due in linea. Buongiorno Cristina. Buongiorno Enzo, buongiorno Camilla. Buongiorno. Bene, sono contenta di avere questi due personaggi in linea nella 70ª puntata di Restiamo Animali, primo compleanno, un anno in onda appunto a difesa dei diritti degli animali. Chiedo a Cristina... animali che sono misconosciuti. Assolutamente. E chiedo a Cristina se ci può fare rapidamente una sintesi a che punto è l'operazione Zero Tolerance di Sea Shepherd in Antartica. L'operazione Zero Tolerance è praticamente quasi conclusa, stiamo solo aspettando l'ufficializzazione da parte dell'ICR, che è l'ente che gestisce la baleneria giapponese, sulla fine appunto della campagna antartica. Sea Shepherd ha messo in atto azioni efficacissime che hanno praticamente impedito alla flotta di rifornirsi e quindi senza carburante non possono andare avanti, hanno cacciato pochissime balene, due all'attivo in tutta la stagione, quindi rimane la stagione storica in assoluto più efficace che Sea Shepherd abbia mai portato avanti in Oceano Antartico. E siamo molto felici, ci sono stati ovviamente dei grossi problemi con la flotta baleniera giapponese, che è stata particolarmente aggressiva proprio a causa dello stress per le perdite economiche subite in tutti questi anni e soprattutto anche quest'anno. E ci hanno speronati, hanno fatto alle nostre navi dei notevoli danni, hanno messo in atto veramente delle attività criminali contro ogni regolamentazione internazionale. Camilla, mi senti? Sì, ci sono, vi sto dando spazio senza intervenire. Sì. Quindi appunto stavo dicendo che hanno messo in atto veramente dei propri crimini sulla base appunto di quelle che sono le regole a tutela della fauna marina e anche a tutela di una navigazione minimamente sicura. Hanno messo in pericolo le nostre navi fino al punto quasi da capovolgere la nostra Bob Barker con la loro nave più grande, una nave da 130 metri, 8.000 tonnellate, che ha letteralmente investito le nostre navi. Comunque noi siamo rimasti ovviamente assolutamente imperterriti di fronte a tutte queste cose e i nostri ragazzi coraggiosissimi hanno continuato a tallonare le navi, a impedirgli di rifornirsi e di cacciare. Quindi un grandissimo successo. È vero, ho visto in internet i filmati, sono impressionanti. Metteremo nel nostro blog il filmato di quando la nave giapponese stringe e spacca fondamentalmente in due la Bob Barker, tant'è vero che mi dicevi che ha un enorme squarcio interno dalla cucina, i ragazzi rischiano di cadere giù nella sala macchina. Ha subito danni sia esterni sul ponte, il ponte dell'elicottero, il radar, un'antenna per le comunicazioni e poi ovviamente a forza di subire queste botte forti appunto da questa nave enorme anche danni interni ha riportato. Comunque niente, l'importante è essere riusciti a portare la nostra missione a compimento nel miglior modo possibile con il sacrificio proprio minimo nel numero di balene e un grande danno economico per la flotta baleniera giapponese che è al collasso grazie alle nostre attività e ai nostri interventi. Chiedo a Enzo Maiorca se ha un commento a riguardo, se vuole aggiungere qualcosa. Il commento è questo, che il nostro plauso, il nostro di uomini deve andare a questa gente, a questi pochissimi meritevoli che con grandissimo spirito e sacrificio vanno a battersi in difesa degli abitanti del mare, a dispetto dei giapponesi e delle loro cortesie. Rischiando la loro vita in prima linea. Certo. Il grosso problema, se posso aggiungere, è anche il fatto che gli stati stanno a guardare. l'Australia non ha voluto mandare una sua nave governativa, che sarebbe stato invece molto importante e significativo, per il famoso discorso di non voler incappare in incidenti diplomatici, diplomatici. E questo è gravissimo, l'impunità di fronte alla mancanza totale di rispetto verso le leggi internazionali a tutela della fauna marina, ma non solo, anche a tutela della vita umana. Queste persone non si interessano a nessun tipo di vita, purtroppo, né quella umana né quella animale. È quello che sosteniamo ed è quello che affermiamo e cerchiamo di divulgare il più possibile anche attraverso questa trasmissione. Devo purtroppo procedere con la scaletta e vi voglio salutare. Vi ringrazio e vi chiedo di restarci vicini. Grazie. Continueremo a chiamarvi, continueremo a consultarvi, perché siete fonti preziose di informazioni. Andiamo avanti, ringrazio Cesar Martignon per la sua regia, grazie alla quale andiamo in onda, e anche al suo aiuto durante tutto l'anno, che è stato preziosissimo per noi. Animali. Davide Battistini, restiamo animali? Restiamo animali, restiamo animali. Professore Sack, restiamo animali? Certo, restiamo animali, siamo animali. Prima di chiudere volevo dare la parola al professor Luigi Lombardi Vallauri, che è qui in studio con noi in diretta, e chiedergli se ha qualcosa da aggiungere rispetto alle cose che abbiamo detto oggi. La mia malinconia, dovuta anche alla bassa voce, mi fa pensare alla dose di violenza che c'è anche nella non violenza. Cioè, questo Gandhi lo sapeva perfettamente. Nuocere al profitto delle ditte che lavorano per gli animali è una forma di violenza. Non si riesce a non essere assolutamente violenti, però ci sono gradi di non violenza, e io credo che bisogna partire sempre dal tentativo di persuadere, poi passare al boicottaggio e solo all'ultimo intervenire con mezzi che nuociano effettivamente a qualcuno. Il danno economico è certamente un grosso danno, di questo dobbiamo essere consapevoli. E il danno economico, il boicottaggio, sappiamo essere anche uno degli strumenti più efficaci di lotta politica non violenta, perché in qualche modo mette in discussione certi punti fermi di un sistema economico, politico, ideologico che sulla violenza basa la sua stessa ragion d'essere, violenza sugli umani e violenza sugli altri animali. Prima di chiudere volevo anche ricordare che Restiamo Animali è anche un libro, e vi volevo invitare a trovare in libreria o in biblioteca, a prestare, leggere comunque Restiamo Animali di Lorenzo Guadagnucci, edito da Terre di Mezzo. E poi un'altra brevissima: Morire per una pelliccia, un documento senza precedenti, mostra gli allevamenti di bisoni in Italia. Essere Animali e Nemesi Animale, due associazioni che stiamo seguendo con interesse perché fanno tante inchieste all'interno degli allevamenti, hanno diciamo un documento che hanno messo online ed è visibile a tutti, lo metteremo nel nostro blog, che fa vedere in che condizioni vengono tenuti i visoni in Italia. E domani, sempre parlando di libri, vi invito tutti a venire al centro Evam in via Reginaldo Giuliani 505A, dove sarò in compagnia di Franco Battiato. Parleremo del Pasto Gentile, il mio libro, ma parleremo anche di argomenti tipo antispecismo, bambolotti fatti a pezzi, e ringraziamo naturalmente Compagnia per gli Animali, Campagne per gli Animali, che tra l'altro è un progetto che ha fatto questo manifesto e che comunque ha una parte di questo gruppo è qui a Firenze, che fa parte del progetto Vivere Vegan. Per cui si è creato casino, se ne creerà dell'altro, e vediamo cosa succede. E domani, per chi ha voglia e ha spazio, al centro Evan. Valentina, un'ultima informazione importantissima, una cosa che sta organizzando in prima persona. Sì, allora io sto organizzando per il 15 di marzo presso l'azienda ospedaliera Careggi, quindi Careggi, un incontro sui metodi sostitutivi alla sperimentazione animale. Siccome questo ha dei costi, allora prima di pubblicizzare l'evento del 15 vorrei pubblicizzare un aperitivo che si terrà giovedì prossimo presso la Pangoro, un pub in via Senese. Troverete tutte le informazioni in via Pisana, scusate, troverete tutte le informazioni sul nostro blog, ovviamente vegano, spero di vedervi tutti perché ho bisogno insomma di un po' di sostegno visto che non l'ho ottenuto dall'università. Non è semplice portare il tema dei metodi sostitutivi alla vivisezione all'interno degli ambienti conservatori dell'università e dell'ospedale, però Valentina sta provando a farcela e quindi le auguriamo di avere successo. Grazie Valentina. Aspetta, ridiciamolo. 1, 2, 3. Restiamo animali! Enzo Maiorca, restiamo animali? Decisamente sì, restiamo animali. Jill Robinson, restiamo animali? Restiamo animali. Remain animals. Onorevole Andrea Zanoni, restiamo animali? Restiamo animali. Io mi chiamo Simone Salvini, restiamo animali. Sindaco Gonzales, restiamo animali? Certo, restiamo animali. Sonny Ricchichi, restiamo animali? Sì, restiamo animali. Davide Battistini, restiamo animali? Restiamo animali, restiamo animali. Professore Sack, restiamo animali? Certo, restiamo animali, siamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. E con questo tormentone di Restiamo Animali chiudiamo questa 70esima trasmissione, l'ultima del primo anno in cui siamo andati in onda, e dalla prossima domenica inizia quindi il nostro secondo anno di trasmissione. Ringraziamo tantissimo di cuore César Martignon, il nostro regista, il nostro amico senza il quale non potremmo andare in onda, e che dire, Elisa, Lorenzo, Luigi, Valentina, Alessandra, Giuseppe, Massimo, Beatrice. Restiamo animali? Restiamo animali! Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Ogni domenica alle 12 su Controradio e nel quinto elemento su controradio.it. Contatti restiamoanimali@controradio.it.